di Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritrovati. Nuova puntata di Zibaldone. Come tutti i venerdì, oggi parleremo di che cosa? Difficile capirlo probabilmente da questo brano, ma insomma, vediamo se qualcuno ce la fa. Abbiamo cominciato con questo brano, non vi dico il titolo, anzi glielo faccio dire subito al Banzo, a cui do il bentornato a Zibaldone, più ergonomico che mai. Banzo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Sì, perché effettivamente capire il tema della puntata di oggi solo da questa canzone, che è uno strumentale, era veramente arduo, ma se passiamo a svelare il titolo qualcosina si capisce, perché il brano si intitola Non sappiamo perché, Referendum Day, che oh, è anche il titolo della puntata di oggi di Zibaldone. Però Steven, non ho detto, vabbè, adesso tu dirai di che referendum si parla, però diciamo che se gli ascoltatori nell'ultimo mese non sono stati su Marte e Elon Musk non c'è ancora arrivato, più o meno dovrebbero saperlo. Però io non ho ancora detto di chi è il brano, ho anche un po' paura di dirlo, perché è difficile da pronunciare, È molto difficile da pronunciare. Ho anche provato a cercare la pronuncia turca, perché si tratta di un gruppo turco, sono gli Ayvalar Alemi, e non si pronuncia così secondo Google Translate, però per semplicità, e in turco significa il mondo degli animali. È un trio di musica psichedelica, come forse avrete intuito da questo brano, formato ad Ankara nel 1999. È un brano uscito nel 2020, ha una caratteristica un po' curiosa, che è stato registrato in Italia, e, per la precisione a Montebelluna, in provincia di Treviso, nel 2017, insieme a molto altro materiale. Diciamo che i brani che sono stati erano più pesanti dell'otto, sono stati inclusi in questo album, il cui titolo non ho ancora detto in realtà, che si intitola appunto Psychedelia in Times of Turbulence, è un grandissimo titolo. E sì, queste sessioni registrate a Montebelluna nel 2017 poi diedero luogo a vari album. Questo è stato edito da Subsound Records, che ha pubblicato anche Traum, Litania, per citarne due che abbiamo trasmesso a Zibaldone. Però, ecco, il titolo, perché hanno scelto quel titolo? Non si sa. In Italia, in quel momento, mentre registravano, maggio 2017, non c'era nessuna consultazione referendaria, non ho controllato se ce ne fossero in Turchia, sì, quindi sì. Il titolo rimane qui un po' sospeso, ma ci ha dato uno spunto, ecco. Bene, no, cioè, è stato in Turchia un referendum importante, più o meno in quegli anni, no? Riguardo alla rielezione del presidente, eccetera. In ogni caso, noi parliamo di un altro referendum che non è del passato, ma è delle prossime settimane, perché come sapete il 22-23 marzo si vota in Italia un importante referendum riguardo alla riforma della giustizia approvata dal governo di destra estrema guidato da Giorgia Meloni, una delle riforme chiave di questa legislatura per l'esecutivo di Meloni. Un referendum che non è abrogativo, attenzione, ma è un referendum appunto perché in Parlamento non ci sono stati due terzi sufficienti a evitare un referendum popolare, quindi non c'è il quorum, quindi questo significa che informarsi riguardo a questo referendum, capire su che cosa si voterà e andare a votare è molto importante, e come faremo quest'oggi cercheremo di spiegarvi qualcosa di più, fare un po' di chiarezza su delle questioni che spesso sono anche complicate e capire anche un po' la logica che c'è dietro questa operazione meloniana e della destra italiana per così dire riformare la giustizia. Lo faremo insieme a Alberto Pellegrini, che è professore di storia contemporanea all'Università di Barcellona e presidente della sezione spagnola dell'AMPI, Guido Picelli. Insomma, con lui avremo modo di parlare di tutto ciò. Banzo, noi prima di sentire anche la voce, chiacchierare di tutto questo con Alberto Pellegrini, andiamo a sentirci un altro brano che è una nuova uscita italiana di un artista molto bravo, molto apprezzato, che è Andrea Laszlo De Simone. Sì, anche un piccolo recupero, perché in realtà l'album è uscito il 17 ottobre 2025, non avevamo avuto modo di trasmetterlo finora, però è un disco di valore assoluto, quindi un brano ci vuole. Passo subito a dire il titolo, che è Pienamente. Questo album, appunto, uscito a ottobre per 42 Records, o 42 Records, intitolato Una lunghissima ombra, che arriva a 8 anni dal predecessore Uomo Donna, sono 17 brani con questi arrangiamenti che rimandano al pop italiano e francese più raffinato degli anni 70, evocano tutto un immaginario, però non suonano passatisti, ci sono anche screziature elettroniche improvvise. Non saprei se definirlo un concept, non lo fa neanche De Simone, però dice che c'è una continuità nei testi e che la lunghissima ombra sono in buona sostanza i pensieri intrusivi che chi più chi meno, diciamo, affliggono tutti. Io non sono particolarmente afflitto, ma tant'è. Sì. Passiamo ad ascoltare il brano. Eccolo, ricordando qui, che però potete anche gustarvelo a livello audiovisivo, perché ogni brano è accompagnato da video minimalisti di paesaggi urbani e naturali su YouTube. Eccolo qui. Me ne andrò lentamente, se mi fermerò, se non rischio più niente, e se aspetterò, ma io muoio in fretta, io brucio di passioni e vivo pienamente in preda alle emozioni. E non ho più paura, ormai non temo niente. Chi vive morirà, chi vive morirà, chi vive morirà. Ma chi vive per sempre, vive per amore, grande gioia o dolore, ho un'altra buona ragione, e allora griderò. pienamente, in preda alle emozioni, e non ho più paura, ormai non temo niente. Chi vive morirà, chi vive morirà, chi vive morirà. Parlare del referendum sulla giustizia dei prossimi 22-23 marzo, oggi abbiamo con noi Alberto Pellegrini, professore di storia contemporanea presso l'Università di Barcellona e presidente di AMPI Spagna, Guido Picelli. Alberto, innanzitutto benvenuto a Zibaldone, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie per avermi invitato. Un piacere averti con noi per parlare di una tematica io credo davvero molto importante. Al riguardo fino a poco tempo fa se ne è parlato poco, immagino che anche molti ascoltatori non abbiano chiaro insomma quello che ci si gioca in questo referendum, no? Che è stata una scommessa del governo Meloni e che modificherebbe sostanzialmente la Costituzione italiana, la Costituzione antifascista del 1948, con ben 7 articoli. Però io, Alberto, comincerei un po' dall'inizio, ossia su che cosa si vota e quali sono, no, i 5 quesiti referendari che toccano delle questioni che sono assolutamente chiave. Sì, allora la riforma essenzialmente voluta dal governo Meloni, come giustamente detto, essenzialmente dal ministro della giustizia Carlo Nordio, tanto è vero che si parla spesso, no, anche di riforma Nordio, insomma, per dire, per semplificare. Essenzialmente viene a separare le carriere del magistrato inquirente del magistrato giudicante e soprattutto io credo che il tema più importante sia la separazione, la divisione, insomma, di quello che qui in questo momento è stato l'organismo di controllo della magistratura italiana, cioè il Consiglio Superiore della Magistratura, CSM, insomma, per semplificare, in due entità che oltretutto poi avrebbero una terza entità che nascerebbe, che sarebbe una specie di alta corte disciplinare che riguarderebbe solamente i magistrati ordinari. Essenzialmente quindi verrebbero a nascere due CSM, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, per semplificare un po'. Questi due CSM verrebbero a questo punto non più selezionati dagli stessi componenti, ma estratti a sorte con diverse modalità, e verrebbe creata questa specie di terzo elemento, terza entità che chiamiamo o che chiamano alta corte disciplinare. Quindi non è solo che separa le carriere, questa è un po' una semplificazione, dire che separa le carriere magistrati giudicanti di quelli inquirenti, fa di più, essenzialmente. Io credo che il punto proprio più importante sia questa demolizione, perché altra parola non riesco a trovare, di quello che è il CSM, cioè questo organismo voluto e pensato ancora in tempi appunto costituenti, che doveva appunto garantire il funzionamento e l'indipendenza del potere giudiziario, insomma, ecco, questo è il riassunto molto semplificato, sì, di una riforma, sì, che poi chiaramente ha degli aspetti più tecnici sui, certo, quali magari appunto non ci soffermeremo più di tanto. Certo, insomma, ecco. certo. Ovviamente poi insomma i quesiti sono sempre a una prima lettura molto complessi, perché, no, certo, riguardano, rimandano a delle leggi del passato, quindi spesso insomma leggendo solo il quesito è molto difficile capire su che cosa si sta votando e su che cosa si sta decidendo, no? Lo stesso, certo, assetto costituzionale costituzionale italiano. Ricorderei, visto che hai nominato il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, organo chiave del sistema politico italiano, che esso è composto nell'attualità da 33 membri e è presieduto dallo stesso Presidente della Repubblica, quindi nell'attualità Sergio Mattarella. E i 30 membri di questi 33 eletti, no, oltre al Presidente della Repubblica, sono membri di diritto anche il primo Presidente e il Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione. Gli altri 30 membri sono eletti e 2/3 di questi sono eletti appunto dai magistrati ordinari, mentre il restante 1/3, quindi 10 membri, dal Parlamento riunito in seduta comune. Ecco, questo è un punto, io credo, molto importante, perché il CSM, forse anche su questo vale la pena un attimo soffermarsi, Alberto, è un organismo chiave nell'equilibrio o separazione, se vogliamo, dei poteri sancito dalla Costituzione del 1948. Certo, è tanto vero che certi articoli della Costituzione è chiaramente esplicitato il CSM. È chiaro che noi dobbiamo anche un po' contestualizzare quando viene scritta la Costituzione, quando viene elaborata la Costituzione. Non dimentichiamo che l'Italia usciva non solo da una guerra, ma da più di un ventennio di dittatura fascista che aveva, come tutti sappiamo, preso il controllo, imposto uno stato totalitario nel quale la magistratura era chiaramente subordinata all'esigenza del potere dittatoriale allora vigente. Quindi noi dobbiamo capire che preoccupazione fondamentale dei nostri padri costituenti fu quella di assicurare quel principio fondamentale della democrazia, ancora dai tempi di Montesquieu, della separazione di poteri, che non solo devono essere separati, ma devono essere anche uguali in quanto peso. Cioè, non il rischio, quello che volevano evitare i padri costituenti era che in poteri separati ce ne fosse uno un po' più potente degli altri, ecco, per semplificare. E quindi è di qui la rilevanza del CSM come organo di governo autonomo e non sottoposto a, diciamo, influenze o dinamiche politiche che dipendano dalla maggioranza di turno che si insedia in Parlamento e che esprime il governo a Palazzo Chigi. Questo è, credo che sia un elemento che noi dobbiamo tenere molto presente per capire l'importanza di quello che è il CSM e quindi, secondo me, per conseguenza, quanto viene colpito questo CSM dividendolo in due e sottoponendolo a quel terzo elemento, questa alta corte disciplinare. Esatto, esatto. Quindi c'è un problema di fondo, secondo me, molto importante. La destra, quindi insomma i partiti che sostengono il governo Meloni, essenzialmente al di là di qualche gruppo più centrista, no, vicino a Calenda, Renzi eccetera, che appoggiano questa riforma, dicono che insomma in realtà il CSM, la magistratura, ha una serie di problemi in Italia, e questo è legato per esempio riguardo al peso delle correnti, no? E quindi in questa nuova modalità di elezione dei membri del CSM verrebbe sostituita dalla riforma, se questo referendum, no? Se il sì vincerà in questo referendum, dal sorteggio. Ecco, anche questa è una cosa un po' particolare, no? Sì, allora, io in primo luogo, intanto la questione è che i giudici o che il CSM sia, non so, espressione pura e semplice delle correnti, no? Che poi non si capisce mai esattamente cosa intendano. Ma è francamente un'esagerazione ridurre che tutto si funzioni a partire da correnti e gruppi di pressione. Mi pare molto riduttivo e che sminuisce molto quello che è l'effettiva funzione di un CSM, intanto, per cominciare. Quindi vediamo di non esagerare. Poi ogni tanto ci siano dei problemi, che ci siano stati dei problemi, sì, va bene, non è che lo neghiamo da questo punto di vista, ma il punto, secondo me, è come menzionato, cioè il governo e i partiti di centrodestra e altri centristi e anche altri gruppi di opinione, associazioni eccetera, che sostengono questa riforma, che riassumendo dicono votate sì al quesito referendario, io penso che ci sia un problema di fondo, nel senso qui governo di centrodestra che fa di questa battaglia una delle sue battaglie più importanti in questa legislatura, ha anche detto chiaramente più di un'occasione per bocca dei suoi stessi esponenti, chiaro non in maniera esplicita e violenta, ma noi vogliamo che la magistratura sia più controllata. Certo. Questo stanno dicendo. Quindi che un potere esecutivo espliciti in questa maniera tanto chiara, certo, una volontà di sottoporre il potere giudiziario, che deve essere libero, indipendente e sullo stesso piano, che dica chiaramente che lo vogliono controllare, che ha troppo potere, che è così, ma è un fatto secondo me di una gravità inaudita, certo, perché certo, mina i principi fondamentali dello Stato di diritto, non solo italiano, ma quelli che abbiamo ereditato dai principi dell'illuminismo e della rivoluzione francese. Qui stiamo rischiando appunto di fare tabula rasa di cose che pensavamo fossero assodate, ereditate, stabilite ormai da 200-250 anni. Ecco, questo è il punto più grave. A me poi viene anche da dire una cosa, che francamente, ora che certi elementi del governo di centrodestra, che sappiamo benissimo che più di centrodestra, forse dovremmo definirli di destra-destra, un pochino centro, mettiamo così, ecco, estrema destra con qualche spruzzatina di centro qui e lì per maquillage, se proprio vogliamo dirla, ma a me viene anche in mente da pensare che francamente questi soggetti politici, la magistratura si è sempre stata considerata un disturbo, un problema, un qualcosa, non come una risorsa, come dovrebbe essere per qualsiasi stato democratico moderno, ma un elemento di disturbo, un ostacolo, un organismo, un'entità che vada essenzialmente ridotta, marginalizzata, e questo è secondo me un altro elemento chiave della questione. Cioè, il rischio di avere un potere esecutivo che vuole il controllo su quello che è il potere giudiziario. Ecco. Certo, perché questa riforma, tra l'altro, no, che non è l'unica che il governo Meloni ha portato avanti, sta portando avanti, si inserisce appunto in un quadro che cerca proprio di rafforzare il potere esecutivo. Pensiamo anche alla riforma delle autonomie, l'autonomia differenziata della Lega, che in realtà è vero spacca l'Italia, ma in realtà dà molto più potere all'esecutivo sul Parlamento per gli accordi con le regioni. Pensiamo poi alla riforma del cosiddetto premierato, con all'atere anche la riforma che insomma si sta portando avanti proprio in queste settimane della legge elettorale, con un forte premio di maggioranza per chi vincerebbe le elezioni. Ma pensiamo poi anche a quello che riguarda la Corte dei Conti, che ha visto proprio alla fine del 2025 una trasformazione che in fin dei conti va sempre in questa logica di dire sono degli elementi di disturbo, quindi insomma cerchiamo di sminuirli, toglierceli dai piedi. Ecco, la riforma della giustizia è importante, quello che tu hai detto, va sottolineata anche in questa logica. Sì, secondo me adesso io forse userò un aggettivo magari un po' forte, ma la logica che soggiace a queste azioni, a queste iniziative che la maggioranza sta portando avanti da quando si è insediata nel 2022, è una logica che secondo me va definita con un semplice aggettivo: eversiva. È una logica eversiva. Perché? Perché distrugge quelli che sono i principi fondamentali dello Stato di diritto. Allora, quello che abbiamo appena detto sulla giustizia, l'abbiamo appena detto, non ci torno su, ma appunto il premierato alla fin fine secondo me obbedisce a quella nostalgia per l'uomo forte che ahimè è ancora molto presente in certi elementi del centrodestra. La cosiddetta autonomia differenziata, non solo spacca l'Italia, come hai giustamente detto, ma appunto dà ulteriori poteri a quello che è il governo. Per non parlare poi della proposta di legge elettorale che si sta discutendo, sta portando avanti proprio in questi giorni, che appunto quello del premio di maggioranza, che consentirebbe tra l'altro alla maggioranza eletta di eleggere il Presidente della Repubblica senza neanche dover praticamente consultare le opposizioni, certo, perché garantirebbe una solidissima maggioranza anche per l'elezione del Presidente della Repubblica. Ma allora, l'hai definita giustamente, è una legge truffa, e allora a me vengono in mente altri due casi di leggi truffa, quella famosa del 53 che non passò, De Gasperi, ma mi viene in mente una legge che non venne definita legge truffa, ma mi viene in mente la legge Acerbo, che poi portò alle elezioni del 24, con le conseguenze che tutti, il listone che fascista, tutti ricordiamo, il premio abnorme, no? Esattamente. Ora, francamente, cioè, non è questione di essere più o meno a favore di una repubblica presidenziale o no, ci sono repubbliche presidenziali perfettamente democratiche, va benissimo, non è la questione di fondo. La questione di fondo, secondo me, è molto più grave, secondo noi è molto più grave, è che una voluta serie di manovre, una chiara serie di manovre che demoliscono la Costituzione antifascista, che, detto sia tra parentesi, probabilmente molti ancora non riescono a digerire in certi settori della maggioranza politica, per non dir di peggio, e che essenzialmente distrugge quelli che sono i principi, certo, fondamentali dello Stato di diritto italiano. Certo. È inutile che ci giriamo attorno. Certo. Prima menzionavi appunto anche delle dichiarazioni, no, che soprattutto si sono, no, accentuate nelle ultime settimane da parte di membri del governo, della maggioranza. Lo stesso ministro della giustizia Nordio, no, ha detto alla leader dell'opposizione del Partito Democratico, Elly Schlein, che insomma, perché si lamentano con questa riforma? Perché una volta che saranno al governo loro, insomma, ma ne saranno anche loro contenti e ne potranno giovare. Penso poi a tutti gli attacchi che sono stati fatti anche nella logica proprio di mobilitare il voto a favore del sì nel referendum contro le cosiddette toghe rosse che stanno bloccando l'applicazione dell'agenda e delle politiche contro l'immigrazione del governo Meloni, e riguardo per esempio anche ai centri in Albania. Quindi insomma, ecco, queste letture che tu stai facendo, insomma, gli stessi membri del governo, da Salvini a Meloni in giù, le stanno in fin dei conti mettendo nero su bianco. Ascolta, volevo toccare con te altri due punti, perché una delle altre, diciamo, carte che usa molto per cercare di far approvare questa riforma da parte della destra è quella della separazione delle carriere, no, tra giudici e pubblici ministeri. Qui c'è moltissima retorica, immagino anche che ci sia, ma è normale, insomma, una conoscenza relativa da parte di molti cittadini riguardo alla situazione reale della magistratura, però insomma, chi ne sa ricorda che come minimo dopo la riforma Cartabia, no, i passaggi di funzione tra giudici e pubblici ministeri sono diventati rarissimi, no? Si parla di 30 all'anno su oltre 9.000. Quindi ecco. Sì, dico, alla fine questa lettura, questa proposta di lettura che viene data dalle forze favorevoli a sì, è una proposta di lettura che tace su molte altre cose. A me vengono in mente anche poi le famose dichiarazioni: no, ma Falcone fosse vivo avrebbe votato sì, e allora uno potrebbe anche rispondere: Borsellino avrebbe votato no, voglio dire, insomma, cioè, sono questi tipi di letture. Ma questa, la lettura della separazione delle carriere, che secondo i favorevoli e sì, insomma, garantirebbe una parità fra accusa e difesa, no? E finalmente questo garantirebbe l'imparzialità dei giudici nel processo. Allora, intanto, questo ovviamente è un desiderio e non è una certezza, prima cosa, perché non è che con questo automaticamente uno garantisce l'imparzialità. E oltretutto, tra l'altro, mi permetto di aggiungere ovviamente adesso, se noi facciamo questo discorso di che finalmente garantiamo l'imparzialità, stiamo dicendoti che prima questo non c'era, la magistratura in Italia c'era. È parziale, esatto. Quindi stanno dicendoci che in questo momento noi in Italia, chi vive in Italia, è sottoposto all'azione della magistratura, non so, di tipo staliniano, non mi pare francamente corrisponda alla verità, nel senso che poi ci siano errori e dei problemi, ma francamente mi pare esagerato stare a poi appunto a citare casi concreti, no? Di lui avrebbe detto sì, un altro avrebbe detto no, ma o che questo sicuramente garantirebbe maggiormente il cittadino di fronte a cosiddetti abusi di giustizia. Ma anche qui continuiamo sulla retorica senza fondamenti, perché non ci sono elementi che ci permettano di affermare che una volta passata la riforma questo non so, vivremmo nel paese di Bengodi probabilmente, certo, dove i processi, certo, si risolverebbero in due giorni invece che con le lunghezze. Poi quanto faceva riferimento tu che alla cosiddetta, le cosiddette toghe rosse, che sono un po' l'ossessione a certa parte del centrodestra italiano da 35-40 anni più o meno, ovviamente toghe rosse, ma forse perché hanno scoperto la loggia P2, le cosiddette toghe rosse, non so, mi viene così da dire, no? Così, associazioni storiche, che queste toghe rosse siano uno impedimento per… Certo. Allora, intanto mi pare che continui a esagerare il peso delle cosiddette toghe rosse. Sembrerebbe che tutti i giudici siano, non so, dei bolscevichi militanti. Francamente, anche questa mi pare una lettura riduttiva, esagerata, parziale e oltretutto molto denigratoria nei confronti di quella che è la magistratura, che fa un lavoro difficile e importantissimo per lo Stato e per la società italiana. Cioè, io li vedo di fondo una lettura e una visione fortemente denigratoria dei magistrati. Certo. Questo è una cosa, secondo me, gravissima. Francamente, è un elemento di una gravità assoluta che il potere esecutivo denigri costantemente, sistematicamente, più o meno in maniera esplicita, l'azione dei magistrati. Sì. Che ora l'Associazione Nazionale dei Magistrati sia unanimemente schierata per il no, vorrà dire qualcosa, insomma, e non credo che sia solo per difendere posti di lavoro o cose di questo genere, non lo so, me, francamente, non solo per una logica corporativa. Bene, tra l'altro altri temi che insomma si stanno ascoltando in questo periodo riguardano, insomma, che sembrerebbe, secondo i fautori del sì e quindi insomma il governo Meloni, che questa giustizia sarebbe una specie di panacea a tutti, questa riforma sarebbe così una panacea di tutti i problemi irrisolti della giustizia, no? Però in realtà la riforma non interviene su nessuno dei problemi concreti reali, ossia la lentezza dei processi, il sovraffollamento delle carceri, che è un problema davvero molto grande in Italia, la carenza di personale o i molti precari che lavorano nel campo della giustizia e che non sono stati ancora stabilizzati. No, non risolve assolutamente niente di tutti i problemi che hai giustamente citato, ma anzi potenzialmente ne aggiunge altri, perché appunto separando, dividendo di fatto in due il CSM, aggiungendoci questa Corte Superiore eccetera eccetera, ma moltiplicherebbe secondo me le perdite di tempo, le perdite di denaro, perché voglio dire, questo significa costi, significa trovare delle sedi, significa perdere tempo per non nominare, quindi cioè, secondo me aggraverebbe ulteriormente alcuni fattori, non servirebbe certo a risolvere i problemi che ci sono e nessuno li nega nella magistratura italiana. Aggiungo poi una cosa sulle modalità in cui è stata portata avanti, che secondo me anche queste sono assolutamente gravissime ed eversive. Allora, qui stiamo parlando di un governo che legittimamente può proporre una riforma della giustizia, e fin qui nessuno discute che un governo possa proporre una riforma della giustizia, nessuno, ci mancherebbe altro, avrebbe niente da obiettare, ma visto che appunto si tratta di una riforma non di poche questioni semplici, di poco peso, ma una riforma di peso molto importante, sarebbe stato secondo noi oltremodo opportuno che il governo avesse cercato dialogo con la magistratura, avesse cercato un terreno di incontro comune e magari fertile di dibattiti eccetera con la magistratura, che è la che verrebbe a essere toccata dalla riforma. Stiamo parlando appunto del potere esecutivo che pensa di riformare il giudiziario. Va bene, non è che non si possa fare mai in nessuna maniera, si può fare, ma ci sono modi e modi di fare le riforme, ci sono modi e modi di affrontare le discussioni che portano alle riforme, ma la sensazione che si è avuta è qualcosa di più della sensazione, perché abbiamo avuto anche concreti riferimenti da parlamentari dell'opposizione che erano nelle commissioni, che questi hanno proceduto a colpi di cannone Simone, se mi passate la metafora, voglio dire, non hanno certo cercato nessun terreno d'incontro, sì, o favorito un dialogo, no, è stata un'azione manu militari, direi io veramente, sì, e quindi questo è un ulteriore fattore, certo, di gravità, certo, secondo me. È un punto molto importante, chiudiamo perché poi il tempo in radio è spesso tiranno, ricordando però anche un ultimo elemento importante, che tipo di referendum è, perché in questo caso non è un referendum abrogativo, quindi non c'è il quorum, perché è un referendum appunto popolare, visto che non c'è stata una maggioranza di 2/3 nel Parlamento, e quindi è d'obbligo per il governo, per l'esecutivo, dover convocare questo referendum, che ricordiamo si terrà il 22 e il 23 marzo, e in questo caso insomma è importantissimo partecipare ed andare a votare, perché un voto può fare la differenza, visto che non c'è bisogno di andare al 50%, che abbiamo visto negli ultimi anni è un problema, quasi uno scoglio quasi insuperabile per i molti referendum abrogativi. Ecco, in questo caso invece non c'è quorum. Esatto, non c'è quorum, per cui ogni voto è importante. Di fatto adesso i sondaggi degli ultimi giorni danno sì e il no circa alla pari, con forse ultimamente una leggera prevalenza del no, ma insomma sono comunque molto vicini. All'inizio i primi sondaggi davano il sì molto avanti, adesso invece più o meno sono più o meno alla pari, per cui tutto potrebbe veramente decidersi per una manciata di voti, magari, non so, poche decine di migliaia anche, nel senso non è da escludersi. Quindi anche per questo anche il voto degli italiani all'estero potrebbe essere in questo caso molto importante, esatto, non ininfluente, ma davvero potrebbe fare forse la differenza in questo caso. Certo. Ascolta Alberto, grazie davvero di essere stato con noi. Ricordo Alberto Pellegrini, professore di storia contemporanea all'Università di Barcellona e presidente della sezione Spagna Guido Picelli dell'AMPI. Alberto, grazie, a prestissimo. Grazie a voi, buona serata. è molto bello questo brano che ci siamo sentiti del Nino Rota Project, guidato dal chitarrista Matteo Sacillotto. È in realtà un volume 2, appunto, dedicato al compositore Nino Rota, reinterpretato in chiave jazz. Il primo disco, ne avevamo parlato probabilmente anni fa anche qui su Zibaldone, Nino Rota Project volume 1 era del 2010, questo invece è uscito nel gennaio di questo 2026, e contiene una selezione di molte belle melodie scritte da Rota, sia per la TV come Il giornalino di Gian Burrasca di Lina Wertmüller, ma poi ovviamente per il cinema, da colonne sonore per film di Francis Ford Coppola, Luchino Visconti, ovviamente Federico Fellini, no? Con cui Rota ha collaborato per tanti anni, e proprio legato a Fellini ci siamo ascoltati questo brano, Le notti di Cabiria, film del 57, ricorderete, anche premiato con l'Oscar l'anno successivo. Belle queste reinterpretazioni del Nino Rota Project, Banzo, però noi in questa finale di trasmissione abbiamo ancora un po' di chicche e soprattutto news. Ti invito a presentare subito ai nostri ascoltatori il prossimo album, più che altro la prossima canzone, di un artista di cui abbiamo parlato l'anno scorso. Beh sì, un brano uscito un mese fa, quindi attualità di 6 febbraio, è una data importante perché diciamo che gli appassionati di sport italiani, soprattutto gli appassionati di Olimpiadi, si trovavano di fronte a un bivio: o ascoltare l'inno di Mameli nella versione di Laura Pausini come apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano, oppure lanciarsi nelle Olimpiadi classiche, quelle di 2000 anni fa, per ascoltare Ultramaratona, il nuovo singolo dei Torso Virile Colossale. Non so se si era capito, una buttata, ecco, non c'era un vero dilemma esistenziale. Comunque noi non avremmo avuto dubbi, perché alla Pausini preferiamo di gran lunga i Torso Virile Colossale, che infatti abbiamo già trasmesso in altre occasioni, progetto del milanese Alessandro Grazian, che è anche cantautore ma collabora con molti altri progetti, ad esempio con Enrico Gabrielli, per citare un'altra vecchia conoscenza di Zibaldone. E Torso Virile Colossale è un progetto, come suggerisce il nome nel caso non l'abbiate presente, che si rifà a un immaginario, anche questo cinematografico, come il brano precedente, a quello dei peplum o muscoli maciste e sandaloni. Esatto, ma ci sta al centro della terra, quelle cose là, il Colosso di Rodi, quei film che fra gli anni 50 e i primi 60, prima di essere diciamo un po' scalzati dagli spaghetti western, dettavano legge nell'industria cinematografica italiana. Quindi questo ritorno graditissimo, continueremo a seguire questo progetto che continua a piacerci. Adesso sentirete che il brano vale veramente la pena. Effettivamente. e dall'ultramaratona di torso virile colossale invece viaggiamo in realtà tra l'Italia e il Brasile per trovare Hate Moss, un duo banzo di cui abbiamo appunto italo-brasiliano di cui abbiamo già parlato a Zibaldone. È uscito da poco il loro nuovo album Hot Mess e noi ci ascoltiamo un brano che si intitola Bianca, e la tematica è da sottolineare perché credo che sia molto importante parlare di questo tema. Oggi abbiamo parlato di politica, di giustizia e ovviamente anche del lavoro e i morti sul lavoro, no? Esatto, sì, il brano si titola Bianca e infatti parla delle cosiddette morti bianche, definizione insomma che uso per consonanza, ma insomma lascia un po' il tempo che trova, che gli Hate Moss, che è appunto un brano del loro nuovo album uscito il 30 gennaio, hanno presentato con una lunga dichiarazione che passo a riassumere perché leggerla tutta sarebbe piuttosto impegnativo, che spiega sostanzialmente come il brano sia nato dal disagio di fronte al modo in cui la politica tratta o non tratta questo tema, alla loro incredulità, che è anche la nostra assolutamente, rispetto all'inazione della politica, perché le cifre dei morti sul lavoro tutti gli anni sono estremamente elevate, troppo elevate, una è troppo, ma stiamo parlando di ben altre quantità. E quindi sì, è un brano che nasce da questa sensazione di impotenza rispetto a un sistema lavoro che non funziona, anche quando non necessariamente nelle situazioni legali, ma nelle situazioni illegali ovviamente ancora di più. E quindi da musicisti quali sono, si sono espressi attraverso la musica, noi apprezziamo molto la loro proposta musicale e sottoscriviamo il messaggio al 100%. Fantastico, ce l'andiamo a ascoltare. Sei nata con gli occhi al cielo, in una notte fredda, coperta sì da un velo, bianca come il latte, tua madre che non c'era, sconfitta nel darti la luce, lasciandoti a primavera, ma che ti ha accolta e ti ha accudita, ti ha stretta forte a sé, colmando quello spazio, colmando quel... Perché... Saturno e l'universo, fissavi gli occhi al cielo con il tuo sguardo. I sogni, le stelle, Saturno e l'universo, fissavi gli occhi al cielo con il tuo sguardo. Perso. E muovevi i primi passi e con essi le prime domande. I tuoi sogni erano stelle, avevi razzi anziché gambe. Di cosa è fatto il cielo? Chiedevi di cosa sono fatte le stelle. Chi badava rispondeva di sogni e cose belle. Bianca come il colore della tuta dell'astronauta. I sogni prendono forma, chi ti ama ti tiene cauta. Finché si è bambini è lecito sognare. Mangiate ragazzini, si pensa a lavorare. Finché si è bambini è lecito sognare. Mangiate ragazzini, si pensa a lavorare. Bianca come la calce che chi ti ama ha respirato, barattando il suo futuro per il tuo mai arrivato. Ti ritrovi abbandonata, senza posti dove andare. Sogni non so stelle, presto inizi a lavorare. Bianca luce al neon che illumina la tua giornata. Per arrivare a fine mese neanche il tempo d'essere amata. I sogni, le stelle, Saturno e l'universo. Fissavi gli occhi al cielo con il tuo sguardo. I sogni, le stelle, Saturno e l'universo. Fissavi gli occhi al cielo con il tuo sguardo. Verso la finestra della fabbrica vedi ragazze della tua età con un altro destino, forse con meno crudeltà. E mentre maledici te stessa, il destino è tutto quanto, non ti rendi conto che la macchina ti ha preso il guanto. Provi a resistere o forse ti fai trascinare. Il dolore è lancinante, neanche il tempo hai di urlare. Le stelle, Saturno e l'universo, chiudevi gli occhi al cielo senza lo sguardo. I sogni, le stelle, Saturno e l'universo, chiudevi gli occhi al cielo senza lo sguardo. Adesso, con sé ti ha portata, liberandoti da una vita senza onore e senza meta, bianca come il viso della morte già annunciata, di chi nasce senza niente, niente lascia se non la vita, di chi nasce senza niente, niente lascia se non la vita, di chi nasce senza niente, niente lascia se non la vita. Bianca è la morte che con sé ti ha portata, bianca è la morte che con sé ti ha portata, bianca è la morte. E loro sono gli 8 Mos, la penultima canzone di questa puntata di Zibaldone, perché siamo arrivati alla fine anche questo venerdì della nostra ora qui insieme su Radio Contrabbanda, ma come sempre ci salutiamo con un ultimo brano che è l'ultimo trago, e in genere appunto canzoni italiane che gironzolano per il mondo cantate dopo essere state tradotte in altre lingue. Banzo, quest'oggi dove andiamo a parare? Sì, perché eravamo partiti dalla lingua spagnola, ma ormai da tempo ci lanciamo dappertutto, e oggi andiamo in Svezia, che è una cosa particolare, peculiare. Sì, esatto, anche perché ovviamente noi non sappiamo lo svedese, però insomma si può dedurre il tema del brano, del quale passo a annunciare il titolo, perché così sveliamo qualcosa. È Da Finis Begravning. E l'ho pronunciato ovviamente male, ma Da Finis è quello che sembra, cioè di Da Fini, è un genitivo sassone, e ovviamente la Da Fini alla quale si fa riferimento è Giovanna Da Fini, quindi si può capire forse che si tratta di una cover di Giovanna Marini, perché nel 1972 aveva inciso questo brano Un po' di qua, un po' di là, che era la sua elegia, diciamo, la sua riflessione a seguito del funerale di Giovanna Da Fini, che era scomparsa il 7 luglio del 69, cantastorie mondine emiliane, esponente di spicco del nuovo canzoniere italiano. Quindi Marini scrive questo brano, si intitola appunto Un po' di qua, un po' di là, e nell'81 viene riadattato in svedese da questo duo, Jan Hammarlund e Kristin Noren, che dedicano un intero album al nuovo canzoniere italiano. Non provo a leggere il titolo in svedese, ma sono i loro nomi, cantano canzoni del nuovo canzoniere italiano: Ivan Della Mea, Giovanna Marini e Paolo Pietrangeli. I riferimenti sono chiarissimi, e appunto traducono questo brano in modo fedele, però con un titolo, che appunto fa un riferimento diretto a Giovanna Da Fini. È un duo di folk politico, Jan Hammarlund e Kristin Noren, sono ancora attivi ma non più insieme, e appunto abbiamo già detto che questo album è un omaggio al nuovo canzoniere italiano, ed è curioso, anche se qui insomma Steven oggi ha la giornata delle pronunce complesse, Il titolo del brano di Giovanna Marini, Un po' di qua, un po' di là, diventa in svedese il titolo del loro disco. Non provo a pronunciarlo perché oggi ho già massacrato abbastanza lingue. Comunque questo brano vuole essere anche un avvicinamento all'8 marzo, che sarà un giorno di lotte, di manifestazioni, perché insomma i chiari di luna sono quelli che sono, ed è necessario continuare a lottare questo 8 marzo tutti i giorni. Assolutamente sì, questa domenica 8 marzo, insomma ricordiamocelo. E faccio io però insomma la lettura, l'accento svedese, come diceva Filini a Fantozzi, anzi Fantozzi a Filini, Nagra ar, Nagra dar, ecco, così insomma sembrerebbe il un po' di qua, un po' di là. Dai, la chiudiamo qui, andiamo a ascoltare questa versione e voliamo in Svezia. Noi ci ritroviamo venerdì prossimo per una nuova puntata di Zibaldone, come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván, alle 17.55 diceva tutti i venerdì: ve lo abbiamo detto in lungo e largo, ricordate che non c'è il quorum, mi raccomando, niente amnesie. Andiamo a votare il 22 e il 23 marzo. Da Finis Begravning, eccola qui la canzone con cui ci salutiamo. I Gonzaga har båten börjat kantra på allvar. En kvinna stiger ombord med två barn. Ser gitarren, frågar efter Da Fini. Hon begravdes förra året. Bakom flodens fördämning, Nora. herre, din tjänarinna Giovanna själ. Men hon har aldrig varit någons tjänarinna, säger mannen. Tyst pappa, det betyder ingenting. Det är en ren formalitet, säger en son som är emigrant. Det är en ren formalitet som man har hållit kvar lite var. Det är en ren formalitet som man har hållit kvar lite var. Visst, vi vet, men det är inte sant att det inte säger någonting. Det betyder århundraden av elände, död och smärta som accepterats som vore det en naturlig sak. Det är en ren formalitet som man har hållit kvar lite var. Solen lyser långt i fjärran och vi har en fruktansvärd kraft i händerna. Vi känner inte någon kyla för vi är redan så tagna, och därför gråter vi med när vi vandrar vidare. Den dagen vaknar vi och solen lyser långt i fjärran och vi har en fruktansvärd kraft i händerna. Vi känner inte någon kyla för vi är redan så tagna, och därför gråter vi medan vi vandrar vidare. Och därför gråter vi medan vi vandrar vidare. Och därför gråter vi medan vi vandrar vidare.